America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Stanford in California. Mario Platero, sono qui nella West Coast, nel cuore della Silicon Valley, per seguire la prima visita americana da presidente del Consiglio di Matteo Renzi. L'ho incontrato ieri sera durante il cocktail che ha preceduto la cena in suo onore offerta da John Hennessy, il rettore di Stanford. Ma prima di parlarvi della sua visita californiana, voglio raccontarvi di una notizia che ha colto il nostro premier arrivando in America. John D. Rockefeller, King of Standard Oil. Vilified as a ruthless predator, as evil incarnate, he had created an industrial empire and a personal fortune on a scale the world had never known. La famiglia Rockefeller, simbolo del capitalismo americano che ha costruito la sua fortuna grazie alla Standard Oil e al petrolio, ha annunciato ieri una sorta di protesta contro il settore che l'ha arricchita. Disinvestirà dal settore energetico non rinnovabile, e dunque principalmente dal petrolio e dal gas, un fondo di 860 milioni di dollari. Il capitale era intestato ai fratelli Rockefeller e destinato ad opere benefiche. Ecco, la notizia dell'adesione dei Rockefeller a questo movimento per il disinvestimento diciamo dall'energia non rinnovabile, iniziato nei college americani, questa notizia sarà data ufficialmente oggi. Perché? Perché vuole coincidere con l'avvio del vertice sull'ambiente che inizierà domani alle Nazioni Unite. Devo dire, l'annuncio dei Rockefeller forse è più simbolico che di vera sostanza, visto che poi la famiglia resta un simbolo americano, ma non è più come era un tempo nelle classifiche delle prime famiglie più ricche d'America. Però il gesto non è solo simbolico, fa massa, perché ci sono 180 aziende e fondi, soprattutto filantropici, che hanno disinvestito dal settore petrolifero per un totale calcolato in 50 miliardi di dollari. Questo non cambierà molto per la liquidità di un mercato che vale migliaia di miliardi di dollari, ma il gesto è forte, indicativo della tendenza americana verso l'energia rinnovabile, l'energia pulita. Che i Rockefeller escano dal petrolio è una storia talmente enorme sul piano dell'immagine dall'aver lasciato sicuramente il segno. Vi ho raccontato questa storia perché non possiamo escluderla dai mille fatti che ci confermano ogni giorno quanto l'America resti la nuova frontiera, cosa che ripeto sempre in chiusura di trasmissione. Ebbene, qui a Stanford siamo nel cuore della nuova frontiera, è qui che è nata Google, in questa università, ed è qui che Renzi ha avuto i primi incontri americani ieri sera. Ecco, avete sentito alcune registrazioni dell'ambiente e dell'atmosfera del party. La voce che avete sentito offriva qualcosa da bere al nostro presidente del Consiglio. Queste sirene sono partite quando Condi Rice, il segretario di Stato con George W. Bush, è arrivata entrando da una porta di sicurezza. Non c'era solo Condi Rice, c'era anche il leggendario George Shultz, segretario di Stato negli anni di Reagan, uno degli artefici della fine della Guerra Fredda. Si è parlato dunque anche di politica, non solo di tecnologia. E c'erano degli italiani alla cena di ieri sera, che alla Silicon Valley hanno fatto benissimo, da quelli storici come Mario Mazzola. Pensate, arrivò con la Olivetti, ora uno dei responsabili di una divisione avanzata della Cisco System, Alberto San Giovanni Vincentelli, professore a Berkeley, Diego Piacentini, capo di tutto l'internazionale di Amazon.com, Luca Maestri, il nuovo direttore finanziario della Apple Computer. Ci sono due messaggi in direzioni diverse. Da una parte quello che Renzi ha sentito da loro, un messaggio chiaro: non ci sono fughe dei cervelli, piuttosto nell'economia globale ci sono avamposti di eccellenza italiana che partecipano agli sviluppi dell'economia globale anche nell'interesse dell'Italia. Occorre dunque liberarsi di questo mito che c'è la fuga dei cervelli e che la fuga dei cervelli è un male. On Alibaba.com you'll find over 7 million suppliers from all around the world, ready to supply whatever you need for your business. Ecco, questa visita, devo dire, propizia, perché Renzi arriva quando la Silicon Valley parla di Alibaba, che si colloca sul mercato americano, raccoglie 22 miliardi di dollari e dobbiamo chiederci in occasione di questa visita quanto siano cambiati i rapporti macrofinanziari, macropolitici. Da una parte c'è il nuovo G2, l'America garante dei mercati finanziari, la Cina di quelli commerciali, dall'altra noi italiani che siamo in mano alle camusso di questo mondo, parlamentari piccini che non parlano inglese, da una parte un modello cinese nominalmente comunista ma che ha seguito passo passo il modello capitalista americano per crescere, per fare business, per creare affidabilità, per dare spazio. Dall'altra, da noi, la fiera delle occasioni perdute per colpa di, come ha detto Renzi, di chi ci costringe a guardare indietro, non consente che l'innovazione tecnologica trovi spazio in azienda per creare nuovo lavoro. Non che si dica nulla di nuovo, sappiamo che queste forze per la resistenza ci sono, però se i due modelli americano e cinesi sono agli antipodi per libertà civili e politiche, su quello economico la Cina ha capito che in un'economia globale non poteva rischiare di essere vassalla degli americani e dunque li ha copiati. Beh, chissà che la nuova svolta del grande G2 finanziario commerciale sino-americano, che la nuova frontiera dall'energia alla tecnologia avanzata non faccia scattare un campanello di allarme fra coloro che sanno quanto il cambiamento sia importante ma preferiscono rifiutarlo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa del Pacifico che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, voglio dedicarla oggi a un grande, a Leonard Cohen, uno dei miei cantanti preferiti. Ha compiuto ieri 80 anni, è nato il 21 settembre del 34 e però nonostante la bella età continua a scrivere canzoni bellissime. Domani uscirà il suo ultimo album Popular Problems con 9 brani inediti. In anteprima ve ne propongo uno di Leonard Cohen, Almost Like the Blues. I saw some people starving. There was murder, there was rape. Their villages were burning. They were trying to escape. There's torture and there's killing and there's all my bad reviews. The war, the children missing, Lord, it's almost like the blues. It's almost like the blues. Da San Francisco è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!